lo sto facendo per la cultura. Sto fumando l'erba illegale. Questa merda vi fa paura, questa merda vi fa leccare. Meglio Madman che fa sti soldi, qualcun altro è senz'altro peggio. Fa il bonifico, fai a segno, no, non prendo niente a noleggio. Delle macchine fra, non scherzo, non me ne è mai fregato un cazzo. Fino a quando ho guardato il prezzo, poi il mio saldo è pensato, cazzo. Ho più sbatti per queste tasse che tatuaggi sopra le braccia. Quindi frate, se non c'è cash di mette, non ne compare traccia. E mi ammazza, sono il capo capo, con la salsa mica chapeau chapeau. Faccio i soldi, vero l'avvocato, fatto su 220 nero scappottato. Cambio auto, voglio il cambio auto, voglio un nuovo cambio bianco immacolato. Quando passo pensi come cazzo ha fatto, l'ho davvero fatto, scaccomatto, tutto calcolato. Ehi, si è già fatto e comunque aspiri. L'ansia mi mangiava, ora no. Ora no, faccio due o tre tiri, fra che dici, resto più guarda un tempo da lei. Affari. Fuori, fuori, fuori, dentro, non importa il sentimento. Fuori dal mio letto stress, tu dormi sul pavimento. Io ti sento, ma un po' attento, mentre faccio fuori, fuori, fuori, dentro, yeah. Io ho fatto centro. Non mi passa mai, dicevano passa ma non passa mai. Spacco nelle casse live, sbanco nella cassa online. Un figlio di puttana in una scarpa Nike. Passa il mic, con quella faccia speri che faccia hype. Scemo. Pause, perché a lei piace lento. Fuori e dentro, fuori e dentro. Ok. Si ripeto sempre quello che penso. Come? No, non prendo le benzo. Come? No, non prendo le benzo. Su beat e va che sembra Beethoven. Faccio un tuffo dentro l'Endover. Senti sta merda come suona, facendo la nona Beethoven. Frate, no, non chiedo permesso. Tu fallisci come l'Excelsior. Metto 10 bombe girate dentro la sua borsa d'Hermes e poi... Ehi, si è già fatto e comunque aspiri. L'ansia mi mangiava, ora no. Ora no, faccio due o tre tiri, fra che dici, resto che ho guarda un tempo da lei. Affari. Fuori, fuori, fuori, dentro, non importa il sentimento.